Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Player One, get ready. Runtime Radio presenta Archeologia videoludica. Archeologia videoludica. E carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti a questo mercoledì sera, ore 21.30, qui sempre sui nostri canali www.runtimeradio.it per interagire con noi. Andate su Telegram e cercate la chat dirette Runtime Radio. Con me ovviamente Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti e buonasera. Questa sera grandi esperimenti, grandi cose. Sì, esperimenti. Stiamo tentando di andare su Twitch, ma è proprio un esperimento perché vedo già ci sono cose che non funzionano, c'è un pizzi doppio e io non ci sono, però non ho capito bene perché. Piano piano, l'addestramento porterà al perfezionamento, diceva qualcuno che non so minimamente chi possa essere stato. Forse sono stato io e non me lo ricordo. Carmine Puccio Console. Ciao a tutti. Carmine Abbiamo Puccio Console. Stato Yoda. Questa sì, vabbè. No, non era Yoda comunque, non è una cosa che mi è venuta in mente a me così. Sì. No, sicuramente qualcuno l'ha detto, insomma. In fondo ci vuole poi tutto sto genio di una cosa del genere. E ragazzi, questa è una settimana importante, tantissime live serali Runtime Radio e soprattutto grandi trasformazioni nel palinsesto. Lo avete letto, andate su www.runtimeradio.it e cercate il pulsantino blog. Sul pulsantino blog c'è il post che vi spiega quali sono le attuali condizioni del palinsesto di Runtime. Il nostro progetto continua a crescere, aumentano gli ascolti, aumentano anche le interazioni, che è la cosa più importante, e ci fa veramente molto piacere. Sono nati nuovi programmi, stanno per nascere anche altri nuovi programmi, ma questa sera siamo tornati qui nella nostra tradizionale casa di archeologia videoludica, insomma un podcast che ci portiamo dietro dal ben dal 2011. Pensate quanta storia, pensate, Carlo, pensate. E torniamo con la seconda parte di una puntata che insomma alla fine è piaciuta. È una puntata che la prima parte è piaciuta tantissimo, abbiamo ricevuto tantissimi feedback positivi, grazie anche al fatto che abbiamo il nostro mega ospite, grandissimo ospite, super esperto speciale di questo argomento. E abbiamo qua il nostro Andrea Contatto. Ciao Andrea. Ciao a tutti, grazie mille e bentornato. Bentornato Andrea, ricordiamo, scrittore di ben due libri dedicati alla storia di Ultima e della Origin, quindi la storia di Garriott praticamente legata alla sua vita professionale, e due libri di grande successo internazionale, perché i Kickstarter, mi ricordo, è andato benissimo e hanno venduto tutte le copie disponibili. Non so, hai rifatto anche già delle ristampe, Andrea, dei libri, se non ricordo male. Sì, abbiamo fatto qualcosina, abbiamo fatto una seconda ristampa dei libri a copertina morbida. Sì, sta andando abbastanza bene, è un titolo che pensavamo inizialmente, la nostra paura era che insomma si esaurisse con il Kickstarter, invece probabilmente abbiamo soltanto scalfito la superficie di questo gruppo di fan di Ultima e di Origin che è in giro e che insomma pian piano sta scoprendo che esiste questo libro. Beh, meglio così. Ottimo. Ultime Origin sono dei capisaldi della storia del videoludico, quindi del videogioco, anche se non sono tra i miei preferiti, e questo l'ho sempre detto, ma è una questione di gusto personale. Io con gli RPG ho sempre avuto in Francia avrebbero detto, in francese naturalmente, questo uomo cacciate per cortesia. In francese. Vabbè, perché tu invece sei un grande fan invece di questa tipologia di giochi, hai giocato Ultima, tutti, ci hai giocati tutti? No, ma che sei matto? No, io realmente, se devo pensare, ho giocato il 6 e il 7 prevalentemente, se proprio vogliamo. Poi li sono andati anche a ripescare e conoscevo anche quelli vecchi, perché comunque con un mio amico ci giochicchiavamo, però io non ero, era un po' frustrante per me giocare ultimo. Magari Carmine invece lui ha giocato tutto. Io i primi tre non ho fatto, 4, 5, 6, 7 a seguire tutti. Ultima online, sì. Sono sempre stato utente PC per un brevissimo periodo, il Mac di mio padre in studio. e poi vabbè, ho avuto un lungo tunnel di Ultima Online da cui sono uscito proprio con difficoltà e fatica. Invece so che per esempio Simone ci aveva avviato una rinomata attività di panificazione a Ultima Online. Sì. Beh, perché allora invece di andare a prendere gli schiaffi dici, sai, ti metti qua, fai il panettiere, cioè, fai il panettiere e vivi la tua vita serena, insomma, cioè il fornaio. Altri tempi, altri tempi, ragazzi. Comunque riprendiamo da dove la storia, da dove l'avevamo interrotta la scorsa puntata. Quindi io lascerei adesso la parola ad Andrea, che riprende i fili dove li avevamo lasciati, e proseguiamo nel raccontare la storia di Ultima e di Garriott. Sì, ecco, la volta scorsa, verso la fine della puntata, avevamo fatto un po' di corsa, avevamo fatto il rush finale, quindi sì. Insomma, magari teniamo un passo indietro, facciamo due passi indietro, velocissimamente un ricapitolo di quello che stava succedendo. Noi abbiamo lasciato Garriott che si metteva a lavorare da solo, fondava la sua compagnia, abbiamo accennato a questa rivoluzione che era in arrivo, che è Ultima 4, però prima di fare questo passo forse bisogna tornare indietro e riflettere un pochino su quello che è successo, su come il modo di fare giochi di Garriott si è evoluto. Abbiamo parlato di Akalabeth, che era un esperimento scolastico scritto in Basic, in cui lui non aveva, quando si è messo a programmare, non aveva nessuna reale intenzione di vendere il suo software come prodotto. E poi a un certo punto, quando ha visto che invece i soldi arrivavano, si è messo a fare Ultima. Lì c'era chiaramente l'intento di venderlo come prodotto, infatti si vede che c'è uno sforzo nel creare qualcosa di più ambizioso, però le capacità di Garriott non tengono il passo con la sua ambizione, tant'è vero che sostanzialmente Ultima 1 lui prende, ricicla intere parti di programma e si fa aiutare dal suo amico, da Kenneth Arnold, per la programmazione in assembly di una parte, che delega letteralmente all'amico e collega. E a quel punto, se riflettiamo un attimo su Ultima 1, lui sostanzialmente come programmatore non ha fatto grandi passi avanti, però si pone delle domande su come creare un gioco e ha delle idee più chiare di quanto sia capace di programmare. Infatti si fa aiutare. Poi passa a ultima 2. Cosa succede nel frattempo? Succede che lui decide di imparare l'assembly e si applica parecchio e riesce a fare dei grossi progressi, anche perché si appoggia a quella grossa scuola che era la Sierra Online, con questo gruppo di programmatori veramente capaci, giovani nerd tutti radunati insieme nel cottage dei coniugi Williams. E lì, grazie all'esperienza di programmatori più amabili di lui e che hanno abbandonato il Basic, semmai l'hanno usato molto prima, lui fa grossi progressi. Però qua succede il passo inverso, cioè lui ha capacità di programmazione che sono molto superiori rispetto alle sue capacità creative. E infatti Ultima 2 è un gioco strano, perché si vede che il motore che lui scrive fa dei grossi progressi, è molto più potente, fa molte più cose, le fa meglio, più velocemente. D'altra parte però ci si rende conto che lui crea dei mondi che sono sostanzialmente vuoti, crea dei dungeon che sono sostanzialmente inutili. Insomma, ripeto, la sua abilità di creare un gioco interessante non tiene il passo con la sua abilità di programmarlo, e questa è una cosa molto particolare. È anche un momento particolare, perché poi vediamo che lo vedremo più avanti, e a un certo punto Garriott prima affina le sue capacità di programmazione e poi si ferma lì e semplicemente sviluppa la propria capacità di creare, di diventare un game designer, finché a un certo punto non lascia per sempre il cappello da programmatore e si mette a fare il creativo per eccellenza, quello che ha le idee, dice al suo team come lavorare. Ecco, questo è un momento in cui lui sostanzialmente è molto bravo a programmare, ma non ha ancora molto bene le idee chiare su come si fa un gioco di ruolo e su come deve funzionare per essere interessante e per essere coerente. E questo ci va l'ultima due. Poi c'è lo screzio tra i Williams e Garriott. Ne avevamo accennato la questione delle royalties. Tu avevi parlato di Mount Rush, ma noi sostanzialmente l'abbiamo nominato, ma non abbiamo ben spiegato che cos'è sto gioco. Beh, sì, in effetti sì. E poi oltretutto, considerando che il beh, non l'avete spiegato perché lo avete denigrato, cioè, invece è un gioco bellissimo fatto su una delle più belle piattaforme possibili immaginabili. Certo, come no, bellissimo soprattutto. No, più che altro spiegare anche la cosa ci sta dietro a questo Mount Rush, che magari è interessante da dire, o no, Andrea? Sì, sì, sì, assolutamente. Garriott è una persona molto carismatica, ormai l'abbiamo capito. Garriott si trascina letteralmente di tutte le persone che incontra, è pieno di energia, non sta mai fermo, è una persona che coinvolge tantissimo e lungo la strada non lascia prigionieri. Tutte le persone che lui incontra in qualche modo se le porta via con sé, ha un'energia e una vitalità assolutamente che conquistano. Tra le varie cose, lui praticamente tutto questo gruppo di persone, di amici di quartiere, prima li converte a Dungeons and Dragons e poi, già che c'è, li fa anche diventare programmatore e game designer. C'è Jack Boucher, che poi si porterà dietro come cofondatore di Origin. C'è Kate Zabalawi, di cui abbiamo già parlato. Ecco, in questo caso, nel caso particolare di Kate Zabalawi, lui se lo porta dietro fino a Sierra. Zabalawi ha un'idea, vuole fare questo gioco, lo vuole fare per il V20, Commodore V20, e si mette a programmare. Come biasimarlo? Era una piattaforma che, quando lui si è messo al lavoro, era una piattaforma che stava vendendo una quantità smodata di pezzi. Cioè, veramente era il momento di boom. Costava poco, era comunque una buona macchina, ma soprattutto costava poco, per cui spopolava. Beh, quanto costava? 6-7 volte meno di un Apple 2, certo, assolutamente. la recensione su Byte, quando uscì il VIC-20, disse: al costo di una sola tastiera vi portate a casa un computer. Beh, certo. Ma infatti, il concetto era quello. Costava poco di più di una console, però era anche un computer, esatto, alla fine. E insomma, c'è poco da fare. L'idea non era sbagliata. Sierra Online, Garriott aveva lasciato la California Pacific per andare a lavorare con la Sierra, stava facendo appunto Ultima 2, e Sierra Online non aveva titoli per questa piattaforma, sotto mano non aveva niente di particolare, ed è male perché era la piattaforma del momento. Ripeto, ne abbiamo già parlato la volta scorsa, in un anno ha battuto le vendite dell'Apple 2 da 77 fino a quel momento, quindi era qualcosa di, stava letteralmente conquistando il mercato. È proprio una meteora il VIC-20, perché noi poi sappiamo che esce il Commodore 64, Tramiel decide di bruciare tutta la concorrenza facendo una guerra dei prezzi, finisce che quasi quasi vende il Commodore 64 a poco più del VIC-20, e ovviamente taglia le gambe anche a se stesso, però poco importa, tutto pur di far fuori la Texas Instruments, che era il bersaglio principale di Tramiel. Fatto sta che in quel momento il VIC-20 stava andando, la Sierra non aveva titoli e Zabalawi stava lavorando su un titolo per il VIC-20. Da cosa nasce cosa? Zabalawi ne parla con Garriott ne parla con Williams, e Williams dice: ah, potremmo essere interessati, però non è tanto convinto dal gioco in sé, per cui dice: sarebbe un valore aggiunto se noi potessimo collegare questo gioco a un brand forte, come, guarda caso, Ultima, fra l'altro è tuo amico, no? Per cui cosa ti costerebbe dirci ok, fate? E Garriott, che è una persona comunque molto generosa, non si fa problemi e usa in maniera molto disinvolta il suo brand. Oggi una cosa così è impensabile, perché un brand è sacro, perché vale utilizzare un brand importante, fra l'altro il tuo brand, l'unico che hai, perché Garriott non aveva altri, utilizzarlo per un prodotto per il quale non sei convinto vuol dire sostanzialmente deprezzarlo, per cui oggi è impensabile un passo di questo tipo. E ai tempi invece non era così impensabile, poi ripeto, Garriott è uno molto istintivo, Zabalowe era suo amico e ha detto facciamolo, autorizza l'operazione, Zabalowe consegna il gioco, iniziano a fare la grafica, riutilizzano ricicloni, quelli della Sierra, riciclano l'immagine fatta da un artista che era l'artista ufficiale della Sierra Online, Paul Stinson, non Stinson come il Geronimo, sì, esatto. Basta fare attenzione a non confondersi. Riutilizzano questa grafica di Ultima 2, e che fra l'altro, se andate a guardare, è una grafica estremamente simile, proprio perché erano veramente ricicloni ai tempi, è una grafica estremamente simile a quella dell'avventura di sua moglie, di Roberta Williams, The Wizards and the Princess, no? Sempre questo castello in cima a questa montagna con questo vicolo tortuoso che porta la grafica della copertina, intendi? Certo, la grafica della copertina, sì, la grafica del gioco non esiste. No, infatti no. C'è anche un meme carinissimo che girava in questo periodo di questi due ragazzi che comprano il gioco con una grafica in copertina fantastica, total carnage, gente che si spara e tutto, poi caricano il gioco, sono quattro cubetti a schermo, ecco. Esatto. Stessa identica cosa, grafica che promette cose mirabolanti e poi lo carichi e hai, insomma, hai questo impatto con la dura realtà di questo gioco che alla fine non è poi tanto bello, e legarlo a Ultima in qualche modo a un certo punto è risultato un passo falso, perché quando il gioco è finalmente pronto la Sierra nel frattempo è un pochino in crisi, è arrivato l'83, c'è la crisi qua. Apriamo subito una parentesi, la crisi colpisce soprattutto una parte del mercato ed è assolutamente regionale, è una crisi che colpisce il Nord America, in certi posti, certo, del mondo non se ne sono neanche accorti, però la Sierra rimane scottata perché aveva fatto tutta una serie di politiche un po' troppo ambiziose, aveva stampato un sacco di giochi per piattaforme che dall'oggi al domani sono venute a mancare sul mercato, soprattutto avevano comprato un sacco di cartucce, cartucce poi costano un sacco perché quando i chip di ROM ai tempi avevano dei costi proibitivi, per cui stampare su floppy o stampare su audiocassetta era una cosa, stampare su cartuccia era, vuol dire spendere 10 volte tanto. Loro avevano stampato un sacco di giochi che poi non riuscivano a vendere, per cui la Sierra nonostante tutto entra in crisi, e quando si entra in crisi la prima cosa che fai è iniziare a tagliare i remi secchi. Sto gioco, insomma, non erano convinti dall'inizio, non bastava il nome per salvarlo, ne stampano una manciata di copie, giusto il minimo per poter dire lo abbiamo fatto, ne vendono ancora di meno, la maggior parte fa la fine più o meno di ET, cioè buttato in qualche discarica, da cui poi 30 anni più tardi riaffiora, perché a scavare e trova delle scatole e dice: ma vedete che questa cosa che era comparsa sui giornali era esistita realmente. Mm-hmm. E insomma, sono storie che alla fine sostanzialmente abbiamo già visto in altri casi, e alla fine il gioco viene ritirato. Per anni arriva la leggenda che i Williams avevano utilizzato senza chiedere il consenso il brand. Non è assolutamente così, la storia è molto più semplice di come l'hanno raccontata. Fatto sta che comunque la crisi taglia le gambe a Sierra, la quale tra le altre cose inizia a tagliare un po' le royalties ai programmatori e agli artisti, e una delle vittime è Garriott se ne va perché l'hanno colto un po', l'hanno toccato un po' sul vivo, e si fonda la sua compagnia. C'è da dire che con questo fatto, pur essendo un gioco che lascia il tempo che trova, Ultima su Vic 20 Mount Rush è forse una delle versioni più costose, più ricercate dai collezionisti in assoluto di Ultima. Vabbè, forza. Sì. Sì, se vogliamo fare una graduatoria, probabilmente prima di tutto c'è Calabet, poi c'è il famoso Lost Veil leggendario, chissà se è mai esistito eccetera, poi in realtà si è scoperto che lo avevano stampato pure lui ma poi lo hanno buttato via, sorte simile, e poi sì, effettivamente c'è Mount Rush. Più o meno quanto vale una cassetta di Mount Rush attualmente? Cioè all'incirca, se lo sai, più o meno. No, devo dire la verità, non sono informato sui prezzi. Mm-hmm. Non penso che sia economica, ma non penso che abbia un valore da comprarci la Porsche. No, quello no, sicuro. Cioè, Calabet, probabilmente la Porsche ce la compri. Addirittura, così alto. Penso, sì, perché l'ultima volta che è andato in vendita valeva migliaia di dollari, e stiamo parlando di tanti anni fa, prima che esplodesse la bolla attuale, che vede tutto duplicato e triplicato e decuplicato come prezzi, per cui sì, probabile che se andasse all'asta varrebbe parecchio. Vabbè, comunque, tanto chi ce l'ha non lo vende, per cui il problema si risolve così. Fatto sta che Verriott, quando inizia, quando fonda la sua compagnia, aveva già un po' le idee chiare, stava già lavorando al seguito. E il suo seguito sostanzialmente era anche un punto d'arrivo, un po' perché dal punto di vista della storia riprendeva le idee che aveva già affrontato con i primi due capitoli. Nel primo capitolo c'era questa lotta col mago Monden che andava sconfitto, nel secondo capitolo c'era la vendetta dell'incantatrice, la Minax, l'amante di Monden, che voleva insomma vendicarsi per l'uccisione del suo maestro Monden, e poi viene sconfitta pure lei. E nel terzo capitolo Geralt decide di a far affrontare al giocatore la progenie di questa coppia di maghi, sono una coppia di maghi, per cui il loro figlio come potrà essere se non potentissimo, pericolosissimo, eccetera, e il figlio si chiama Exodus. Anche qua è difficile capire esattamente dove arriva l'ironia di Geralt e dove invece è una serie di fortunate circostanze. Il nome in sé, Exodus, esodo, Geralt l'ha scelto perché suonava bene, un po' come Ultimatum, che poi diventa Ultima, e così a Calabeth, World of Doom, eccetera. Lui si fa ispirare da questi nomi che hanno un suono potente. Poi però in realtà lui aveva appena lasciato la Sierra Online, quindi lui aveva fatto una sorta di esodo, no? Se n'era andato, per cui sembra quasi strizzare l'occhio al fatto che aveva appunto mollato Sierra per fare la sua compagnia. Fra l'altro, siccome noi sappiamo che quando affonda la compagnia la chiama Origin, e sappiamo che quando molla Origin crea Destination Games, e poi quando molla Destination Games fa Portalarium, sembra proprio che tutti i nomi che sceglie li sceglie per un motivo, no? Fatto sta che questo Exodus per agosto dell'83 è pronto. E come dicevamo, l'83 non è un anno fantastico per chi fa videogiochi, ma per chi fa videogiochi su computer invece è un anno abbastanza buono, perché i computer vanno parecchio, per cui sembra quasi che sia l'anno peggiore per fare un videogioco, e invece in fin dei conti per fare un videogioco sull'Apple 2, che poi quello che faceva lui sostanzialmente, non è mica un anno brutto. La sua compagnia è più o meno come tutte le startup che ormai sono entrate nella leggenda, i pirati della Silicon Valley, eccetera. Cioè, questi veramente usarono un garage dietro casa, il garage che fino a qualche mese prima era stato della madre di Geralt, ci aveva messo i suoi quadri e tutte le sue attrezzature per fare per dipingere, colorare, disegnare. Deve spostarle tutte perché deve fare spazio ai computer del figlio. Un caldo infernale, con queste macchine accese giorno e notte, quello che programma. Sono praticamente, hanno oltre ai fondatori, lui e Chuck Boucher, ci sono dentro soltanto due impiegati tutto fare, che si occupano veramente di qualunque cosa, dalla segreteria a prendere gli ordini, fare i commerciali, a contabilità, e poi quando il gioco è pronto si mettono tutti insieme, programmatori compresi, a stampare, a copiare i floppy giorno e notte e a inscatolare questi giochi. E qua dobbiamo rifletterci un attimo su questa cosa, perché Geralt racconta che la prima tiratura di Exodus, che lui autoproduce, si fa contemporaneamente da casa software e da publisher, è di 100.000 copie. Ma può essere possibile un numero simile? La risposta è assolutamente no, nel senso che la prima tiratura non può essere stata di 100.000 copie. Perché? Perché la prima tiratura comprende una scatola di cartone con dentro i floppy, quindi un dollaro a floppy più o meno, la mappa, il manuale e una serie di gadget, perché lui è ambizioso e nonostante abbia lasciato la Sierra, che aveva sposato proprio per avere i soldi per fare le mappe, per fare queste scatole sfarzose, e lui comunque decide, anche andando da solo, di non rinunciare a tutto questo. Per cui, però i soldi ce li deve mettere lui stavolta. È vero che ha guadagnato parecchio con i primi giochi, però è un bel rischio investire così tanti soldi, vuol dire che se poi non vendi tu hai perso tutto, non hai più nulla. Insomma, 100.000 pezzi a, immaginiamo, visto che poi andavano venduti tra i 45 e i $59, e sappiamo che al massimo Origin poteva venderli ai distributori al 50%, vuol dire che costavano indicativamente tra i $10-15 a pezzo, vuol dire $1.5 milioni di dollari di magazzino, di inventario. non aveva guadagnato quella cifra per quella prima tiratura. Ma scusami, ma stiamo parlando solo di Apple II in questo caso? Comunque, in realtà il gioco venne programmato su Apple II, ma venne portato praticamente subito e uscì subito nel giro di un mesetto o due, uscì anche per altre piattaforme, tra cui l'Apple, l'Atari ST, l'IBM PC, eccetera. Quello dell'IBM PC è un porting particolarmente sfortunato, con quella grafica color viola assolutamente inguardabile e il beeper del PC. Ed era la prima volta che, scusa la domanda, perché come sai io non mi intendo di ultima, lo chiedo anche per conto degli ascoltatori, era la prima volta che lo faceva il porting per le altre, o anche le altre versioni fatte della Sierra erano state convertite per tutti? Allora, non lo aveva fatto lui, perché lui non sapeva assolutamente programmare per IBM PC, cercherà di imparare più tardi attorno all'88-89, per cui non è il momento adesso. Lo ha fatto fare ad altri, dovrebbe essersi occupato Jack Boucher, credo. Fatto sta che non era la prima volta che un Apple finiva sull'IBM PC, perché Sierra alla fine del rapporto con Garriott, e fu uno delle gocce che fecero traboccare il leggendario vaso, quando Sierra si vide in difficoltà iniziò a buttare sul mercato tutto quello che ci poteva stare, no? Siccome Ultima andava, stesso discorso di prima, i giochi per PC funzionavano, PC inteso come computer, non sì, personal computer IBM, ecco. Certo. I giochi per i computer funzionavano, i giochi per console erano in difficoltà, le console erano in difficoltà nell'83. Fatto sta che il contratto che Garriott aveva siglato con i Williams non prevedeva un porting per l'IBM PC, perché quando si erano contattati, l'82 era uscito da poco e non era una macchina fantastica per far giochi, non certo. Che nell'83 non lo era diventata, però nell'83 aveva un bacino d'utenza grande, per cui nonostante fosse una macchina pessima per fare giochi, chi se ne frega, facciamoli comunque, magari vendiamo qualcosa, no, che ci costa. Williams propone a Garriott di fare il porting, dice te lo faccio io, tu devi soltanto siglare questo contrattino, però guarda, siamo un po' in difficoltà, io al massimo ti posso dare la metà di quello che ti davo prima, perché di più no, prendere o lasciare. Garriott si arrabbia, perché non gli piace dover trattare, non gli piace mai trattare a scendere, a chi piace d'altra parte, però non ha alternative, perché lui è vincolato, Ultima 2 rimarrà per la Sierra per diversi anni, per cui nonostante lui lasci la Sierra, i fondi Origin, non potrà più vendere Ultima 2 per diversi anni, se non erro fino all'85, per cui lui sa che o firma e allora può vendere su IBM PC, o non firma, allora per diversi anni Ultima 2 gli utenti per PC non lo vedranno mai. Firma proprio obtorto collo, se la segna al dito, ed si sente ancora più motivato di lasciare Williams e andare per fatti suoi. Quindi c'era già stato il porting per IBM PC di Ultima 2, mentre Ultima... IBM PC, scusami, e anche altri computer dell'epoca, perché nell'82, come hai detto, l'IBM PC non era diffuso. 83 era dell'83, giusto? 83 il porting per IBM PC dovrebbe essere dalla fine dell'82, perché all'inizio dell'83 lui aveva già lasciato Sierra, per cui okay. E lo fanno solo per PC? Adesso mi cogli un attimo in difficoltà, dovrei andare a guardare. No, perché nell'82-83 c'era, a parte il Commodore 64 che iniziava ovviamente a vendere parecchio anche negli Stati Uniti, c'erano tanti altri computer poi disponibili, però non so, Ultima, cioè vedendolo adesso a priori lo trovo su tutte le piattaforme dell'universo, però non so se fu una cosa dell'epoca. Esatto, bisogna vedere se si tratta del porting fatto da Sierra o se si tratta del porting fatto successivamente da Origin, quando a partire dall'85 ha di nuovo messo le mani su questa proprietà intellettuale, e quindi ha potuto. No, franchising l'ha sempre controllato. Garriott non ha mai ceduto franchising, non è mai stato così pazzo da cedere il franchising di Ultima, però aveva ceduto Ultima 2, quello sì, per cui, e aveva ceduto anche Ultima 1, infatti. infatti fino all'85 non fu in grado di rifarlo. Poi quando riebbe in mano i primi due, insomma, i primi due capitoli, a quel punto lanciò la sua compagnia in Operazione Revival, con questa edizione remastered, come diremmo noi oggi, e iniziò a vendere anche quelli per le varie anche per esempio sui computer giapponesi lo trovo in tutte le versioni possibili, dal PC 88 della NEC al l'ho visto ultima sul Nintendo NES, che in Giappone era il Famicom, che era il Family Computer, l'ho visto sul computer della lo Sharp, quello precedente all'X68000, cioè veramente l'ho visto dappertutto. Beh, a parte poi conosciuti con 64, Amiga, Atari ST, eccetera, eccetera. E quindi fece una serie di porting. Mi interessava capire quando questo. Quindi tu dici che successe dopo, in realtà. Sì, deve essere successo dopo. I porting su piattaforme giapponesi sono un discorso molto, molto complicato, che verrebbe trattato proprio a parte. Anche perché comunque ultima, assieme a Wizardry, sono due titoli che gli inglesi chiamano seminali, nel senso che hanno veramente sono loro all'origine dei giochi di ruolo giapponesi, per tutta una serie di circostanze che meriterebbero una puntata a parte, per cui se ci partiamo, se usciamo di fatto, non so se Simone ce la fa. Comunque sì, moriremo prima di vecchiaia prima di raccontarle tutte queste cose, ma il punto è che in Giappone un sacco di, diciamo che abbiamo il limite delle ore 23, insomma, per esigenze di radio, però poi non ce la faremo mai per questo, per esigenze puramente radiofoniche, esatto. Dicevo, i Ultima e Wizardry in Giappone all'inizio penetrarono molto poco, perché erano legati a piattaforme che in Giappone ovviamente avevano una quota di mercato quasi inesistente, le Apple II, cioè pochissimi ce l'avevano, perché costava molto più che negli Stati Uniti, già costava un capitale, no? L'importazione. Però mi pare che Wizardry ancora oggi in Giappone sia particolarmente apprezzato. Certo, ma sì, anche Ultima, ma nei porting locali. Sì, nei porting locali, sì. No, c'è una spiegazione per tutto questo. La spiegazione, però, mi fate uscire dal seminario, allora lo faccio volentieri, però attenzione. Vai, non ti preoccupare. Aprite una porta. Allora, il Wizardry venne programmato da due tizi che si chiamano Robert Woodhead e Andrew Greenberg. Vabbè, il successo che il titolo ebbe qua in Occidente fu clamoroso, e il gioco, come del resto capitò anche a Ultima, arrivò anche in Giappone, però diciamo a un pubblico molto ristretto, proprio perché girava su piattaforme che non erano diffuse in Giappone. Ma non importa, perché arrivò comunque nelle mani giuste. Una serie di programmatori giapponesi, quindi locali, giocò a Ultima e a Wizardry, rimase particolarmente impressionata e insomma sviluppò dei giochi partendo dall'esperienza di gioco che aveva avuto con questi due titoli occidentali. E i primi titoli, i più influenti, direttamente ispirati da Ultima e Wizardry, sono Final Fantasy, il primo capitolo ovviamente, e Dragon Quest, quindi già tirato fuori due pesi massimi dei giochi di ruolo giapponesi. Però come mai Wizardry ci è rimasto in Giappone mentre Ultima a un certo punto è finito? Prima di tutto perché Ultima poi è rimasto in mano saldamente all'Electronic Arts, per cui non c'è stato modo che l'IP finisse in Giappone, mentre per Wizardry è un discorso particolare, nel senso che l'IP era in mano a questo Robert Woodhead. Andrew Greenberg, dopo il terzo capitolo, si disinteressò e se ne andò, mentre questo Robert Woodhead era uno che era particolarmente interessato alla cultura giapponese, in particolar modo era un appassionato di anime giapponesi, però lui di giapponese, la lingua giapponese, non capiva assolutamente nulla. Aveva un amico che costringeva a vedere i film, i cartoni animati giapponesi, assieme a lui, per fargli da interprete. Questo povero amico, martire per la causa, a un certo punto insomma si stufò, e per fortuna si stufò proprio mentre a Woodhead capitò sotto mano una delle primissime macchine che servivano per fare i sottotitoli. Praticamente mettevano in sovraimpressione su queste immagini dei sottotitoli scritti in digitale. quando vede questa cosa dice: che bello, invece di costringere il mio povero amico sventurato a farmi tradurre in tempo reale gli anime giapponesi, io posso beccare qualcuno che me li traduce, e sai cosa potremmo fare? Potremmo anche venderle queste cose, potremmo prendere i diritti per vendere e distribuire qua in Occidente i cartoni animati giapponesi non doppiati, perché costa troppo, ma sottotitolati, e fonda la prima piattaforma che vende appunto questi titoli giapponesi sottotitolati, che si chiama Animego, e lì fa un sacco di soldi. Ovviamente per mandare avanti la compagnia deve viaggiare e andare in Giappone diverse volte. Nei suoi vari viaggi che fa in Giappone ha una serie di rapporti commerciali con l'industria dell'intrattenimento, e a questo punto si rende conto che in Giappone c'è una sorta di revival. Il titolo Wizardry, oltre ad aver scaturito tutta una serie di giochi di ruolo locali che sono derivativi ma che sono comunque molto influenzati da su Wizardry, oltre che da Ultima, insomma, oltre che questo si rende conto che là c'è ancora un interesse, per cui a quel punto il titolo, la proprietà intellettuale viene ceduta a delle case editrici giapponesi, le quali hanno i diritti per mandare avanti la serie, mentre qua in Occidente la proprietà intellettuale rimane in mano alla Sirtec, che a un certo punto all'ottavo capitolo chiude battenti, e sappiamo che quando ha chiuso gli studi nel Nord America ha passato alla divisione canadese, è uscito l'ottavo capitolo di Wizardry. Fra l'altro, qua ultimo inciso, poi giuro che non vado avanti, l'ultimo capitolo è stato diretto dall'attuale moglie di John Romero, che fu beta tester del primo capitolo di Wizardry, quindi alla fine questo. Tra l'altro, un'apprezzata sviluppatrice di giochi da tavolo, Linda Romero. Brenda Romero. Brenda, scusate, Linda, come mi sento, non lo so. Brenda, sì. Tra l'altro, seguivo un podcast in inglese dove l'hanno invitata due volte. Racconta questa storia divertentissima. Fino a un certo punto, che lei comunque viene dall'est Europa e diceva lì era difficilissimo trovare i giochi da tavolo completi, quindi riuscivano a rimediare pezzi di vari giochi da tavolo scomposti, quindi li mettevano insieme il tabellone di uno, le pedine dell'altro, che ne so, le carte da sorteggiare di un altro ancora, e si dovevano arrangiare nel riorganizzare i regolamenti in base ai pezzi che avevano, quindi riconduceva la sua passione per i giochi a quello sforzo creativo che doveva fare quando era ancora lontana dagli Stati Uniti. E comunque abbiamo risposto alla domanda di Wizard di come mai funziona ancora. Beh, quindi questo accade, cioè li hanno visti anni dopo, quindi i vari. I Wizardry li hanno visti praticamente subito, cioè come sono usciti qua in Occidente, qualche pazzo si è. Sì, no, non dico quelli che si sono ispirati per far, ma i veri titoli li hanno. Anche Ultima è uscito dopo, quindi tutte le varie versioni di Ultima sui vari PC. Ecco, sulla versione di Ultima invece inizialmente non c'era nessuno che aveva i diritti di distribuzione di Ultima in Oriente, in Giappone, per cui sì. Ci sono diversi titoli, versioni non proprio del tutto assolutamente perfettamente legali ed ufficiali, bootleg, che chiamiamole come vogliamo. Fatto sta che inizialmente c'era qualcuno che si prendeva un po' la briga di portare o di fare dei giochetti, magheggi, hackeraggi di ogni tipo, e per rendere al nobile scopo di rendere fruibile Ultima sulle piattaforme orientali. Poi quando Origin inizia ad avere rapporti con la Electronic Arts, a quel punto si apre la strada, per cui con Electronic Arts è più facile arrivare in Giappone, è più facile avere qualcuno che è interessato a prendere i diritti, tradurre e vendere localmente, per cui poi dopo effettivamente c'è un fiorire di decine di versioni diverse, alcune fatte bene, altre insomma così e così. Hai citato Ultima 7 per NES, effettivamente quello è uno dei punti bassi della serie. Sì, io so solo che è uscito, poi come sai, sì. No? Avrebbe potuto anche fare a meno di uscire. Possiamo anche spiegare il fatto che oggi i porting più o meno sono, a parte ovviamente tutti i dovuti metodi di transcodifica, poi più o meno sono pari, no? Sono uno a uno rispetto a com'è su, mettiamo, una console rispetto all'altra, a parte i limiti tecnici. Invece una volta il gioco veniva completamente riprogrammato da ZX Spectrum a Commodore 64 e c'erano delle differenze a volte anche abissali, no? Cioè sia tecniche che a volte anche di estetiche, insomma, diciamo così, no? Giusto? Assolutamente, sì, beh, a parte i limiti tecnici, che c'erano le differenze tecniche tra le varie macchine, c'era anche da dire che molto dipendeva dal, diciamo, dal manico del programmatore che aveva in mano la conversione e dal tempo che gli davano per farla, perché a volte per sfruttare, diciamo, il fatto che avevi pagato tanto per avere un titolo, dovevi pagare poco al programmatore che faceva il porting, e quindi uscivano anche delle cose veramente orrende, ignobili, e fatte, sì, assolutamente ignobili, anche sotto le capacità stesse delle macchine sulle quali erano fatte. No, io faccio questa cosa così poi ritorniamo immediatamente, perché io per esempio ricordo benissimo un gioco di cui mi innamorai tantissimo, era Match Day per ZX Spectrum, lo stesso gioco per C64 era tutto un altro gioco poi fondamentalmente. E immagino così anche le versioni per NES, giusto Andrea? Di Ultima. Sì, se è proprio un altro gioco, perché non, un gioco così non ci poteva stare sostanzialmente. A me viene in mente tantissimo, adesso però mi sfugge il nome, quel gioco laser game ambientato in quel dungeon, Dragon Slayer, intendi? Dragon Slayer si chiama, adesso, sì, di quello, se laser game, sì, laser game, esatto, io la prima volta l'ho visto laser game e Dragon Slayer, certo, sì, l'ho visto in sala giochi e ovviamente avevo gli occhi a cuoricino, non importa se la giocabilità era quella che era, quando l'ho visto mi ha conquistato, perché era qualcosa di troppo bello per essere vero. Poi ho visto che lo vendevano anche per Commodore 64, ho detto accidenti, lo voglio, cioè come può qualcuno aver programmato una cosa così bella sul Commodore 64? Infatti non l'avevano fatto. Non era. Vabbè, però lì è anche diverso, proprio come concezione di Sam, parla proprio dei due universi. Io tante volte parlavo proprio del gioco programmato per No, ma Ultima 7 per NES è uguale. Okay. È così, punto. Non è lo stesso, uguale. È un'altra cosa. Sì, però io mi ricordo il CD-ROM per PC comprato, il primo gioco che prendo è Dragon Slayer e continuava a essere orribile lo stesso, anche su CD-ROM. Una delle cose più imbarazzanti della mia vita. Altro che The Seventh Guest, no, cioè, voglio Dragon Slayer, devo soffrire. Hai dovuto aspettare anni e anni e anni prima di poterlo giocare a casa decente. No, l'ho giocato su un emulatore, la prima volta che l'ho giocato in maniera decente l'ho giocato su un emulatore, cioè, sul Daphne, sul Daphne. Ho fatto quello è Space Quest perché non l'avevo mai provato. Va bene, quindi Andrea, scusa, ti abbiamo fatto uscire dal seminato, ma eravamo rimasti che quindi iniziava quindi a produrre queste 100.000 copie che non erano 100.000, giusto? No, non erano 100.000, erano molti molti di meno, perché se facciamo i conti in tasca a Garriott non aveva guadagnato tutti quei soldi per poterli investire, e se anche avesse guadagnato $1.5 million difficilmente li avrebbe investiti tutti in un'operazione di questo tipo con i rischi che comporta. Fatto sta che comunque in ogni caso le vendite sono molto molto buone, al punto che deve continuare a ristampare. Allora a questo punto probabilmente possiamo dire che la prima tiratura 100.000 copie sicuramente no, magari facciamo 10.000, sicuramente nel giro di 6 mesi 100.000 copie se ne vanno, e questo non c'è dubbio, perché noi abbiamo le classifiche di vendita sui vari giornali dell'epoca e Ultima 3 è assolutamente in testa per diversi mesi, per cui è chiaro che le copie andavano come il pane e vanno bene, loro continuano a stampare, a scatolare, stampano, e però qua, e questo ne abbiamo già un po' accennato, c'è il problema che il fratello di Garriott è un po' stufo di fare avanti e indietro, allora chiede a Garriott di spostarsi nel New Hampshire. Garriott inizialmente è riluttante, accetta, anche perché senza fratello non ce la può fare, e si sposta nel New Hampshire, lui che viene da Texas, e non è la prima volta che si sposta, avevano già raccontato che non si era trovato tanto bene in California, non si era trovato tanto bene al cottage dei Williams, e lui va nel New Hampshire, è un rottivalle, nonostante, no, beh, è una persona che sente nostalgia di casa, per cui quando arriva nel New Hampshire, nonostante i buoni propositi, lui non si trova tanto bene, si trova bene, cerca un po' di ravvivare la giornata facendo il suo primo la sua prima casa insomma dell'orrore, che poi diventerà un marchio di fabbrica delle feste di Garriott. Chiunque dovrebbe aver sentito il famoso Britannia Manor, quel castello che è anche casa stregata oltre che essere abitazione di Garriott, e sì, sì. Oltre ad essere museo di particolarità e oggetti magici e tutto. Fatto sta che lui per il primo Halloween, per tirarsi su di morale, spende un po' di soldi. Sì, spende un po' di soldi, fa questa casa dell'orrore, invita i vicini di casa, i quali non apprezzano poi tanto, e quindi se la segna per dire: ma come, vi ho invitati in casa mia e voi non siete contenti? Quando finisce il Halloween, smantellano tutto, buttano i manichini, insomma tutti questi prop, li buttano nel campo lì accanto, cade sopra anche la neve, quindi praticamente vedete spuntare un braccio di un manichino, una gamba dalla neve, è anche uno spettacolo lugubre, e i vicini ancora più preoccupati da questo gruppo di nerd programmatori che hanno preso questa casa. Fatto sta che non va tanto bene e lui entra in questo periodo nero, per cui se voi guardate le foto dell'epoca, improvvisamente inizia a vestirsi con questa giacca nera di pelle, inizia a farsi crescere i capelli col codino, insomma non sta bene, non gli piace quel posto lì. Fra l'altro nasce anche la prima polemica, ne avrà diverse, perché lui torna da Lubé, che era il tizio che aveva disegnato quel quadro che poi era stato utilizzato per l'artwork di Akalabeth, mi pare di averlo accennato nella prima puntata. Lui torna da Lubé e gli chiede di realizzargli un artwork per il suo Exodus. Spiega che questo Exodus è la progenie del male di due maghi, eccetera. Fra parentesi, questo lo anticipo, all'interno del gioco poi si scopre che alla fine è una sorta di mega computer che si disattiva con delle schede. Spoiler. Sì, vero, un gioco dell'83. Vale ancora lo spoiler dopo tutti questi anni? Sempre vale. Sì. Okay. Se qualcuno volesse giocarlo, l'ho appena rovinato. Fatto sta che Lubé ha un po' di genio e si inventa questa copertina e dà a Exodus un'immagine demoniaca. Sembra veramente un diavolo, no? Mm-hmm, me lo ricordo, il diavolo rosso di Exodus. Voi sapete che era il periodo in cui c'era quella qualità, l'avremmo chiamata mamma coraggio, oppure con termini non proprio carini, dipendentemente da che parte si trova chi parla, il commentatore. Erano i tempi in cui negli Stati Uniti c'era una tizia che aveva fatto la sua campagna, per la sua crociata contro Dungeons & Dragons, contro questa cultura pop, per definendola una bruttura, una stortura, un qualcosa che corrompeva le giovani vite degli americani. Dungeons & Dragons con la magia è qualcosa di corrotto, demoniaco, satanistico, eccetera, per cui no, infatti facevano meglio mettersi in cappuccio bianco e andare in giro a fare i danni, insomma, secondo loro, no? Perché giustamente questo è il principio dell'americani. Vai, scusa. Sì. Beh, ma no, ma in realtà poi questa signora a un certo punto scomparì dalla situazione, dalla circolazione, nessuno ne seppe più nulla. Attenzione. È una stagione, nel senso che per qualche mese finisce sui giornali, fa questa crociata, guida un sacco di gente scandalizzata, abbattiamo Dungeons & Dragons che insegnano il satanismo e la magia nera ai nostri ragazzi, e Garriott finisce a fuoco incrociato. Perché? Perché aveva messo un diavolo in copertina. Copertina, certo. Sì, un vero diavolo con le corna, eccetera, eccetera. E fra l'altro lui, con grande gusto della rivincita, giusto che la prima volta gli è andata bene, fa il bis con Ultima 8. Tutti vi ricordate che addirittura ci mette un pentacolo in copertina, giusto per... Fra l'altro, curiosità, quando poi Origin cresce, quindi stiamo parlando tra l'89 e il 91, lui ha un interno, perché c'è un sacco di uffici, no? E il suo interno, guardate che numero poteva avere, secondo voi? 666, esattamente. Se voi andate a guardare la newsletter interna di Origin, nell'81, se non erro, lui ha come numero di interno 666, giusto perché si fa beffe. È una persona molto scientifica, assolutamente contro. Lui accumula un sacco di oggetti magici, ma un po' come lo fa l'illusionista, che sa benissimo che la magia non esiste e si tratta appunto di un'illusione. Lui è un collezionista, ma ripeto, è una persona molto scientifica e quindi si è sempre fatto un po' beffe di tutte queste persone così preoccupate dalla magia e dalle arti oscure e tutte queste preoccupazioni che lui non ha mai sentito. Fatto sta che questo Exodus è un bel passo avanti. Adesso finalmente abbiamo un Garriott che ha capacità programmative e capacità di creazione di un gioco di ruolo che vanno di pari passo, non sono abbastanza omogenee, sono allo stesso livello. Abbandona il vecchio schema, quindi non hai più il tuo giocatore, il tuo avatar e basta, ma hai un party di quattro eroi, ed è un passo avanti, perché chiaramente a livello di profondità di gioco guidare solo il tuo eroe o guidare un party di quattro eroi è tutto un altro discorso, no? Wizardry aveva avuto buona parte del suo successo proprio il fatto che non ti dava neanche 4, ma te ne dava 6 di eroi. E Garriott però fa un salto ancora, fa un passo molto più lungo di Wizardry. È vero che ti dà un party di 4 persone, non di 6, con le loro classi, le professioni, una struttura di crescita, quei livelli, l'esperienza, qualcosa che attinge molto da Dungeons & Dragons, che però comunque ha le sue peculiarità, però a differenza di Wizardry, dove il combattimento è abbastanza idealizzato, per cui hai i primi 3 personaggi dell'elenco, sono l'avanguardia, e i 3 personaggi dell'elenco dalla posizione 4 a 6 è la retroguardia, per cui soltanto quelli davanti possono menare, quelli dietro al massimo possono lanciare incantesimi. Quindi è uno schieramento, è un sistema abbastanza idealizzato, no? In Wizardry addirittura i nemici sono tutti alla stessa distanza, se anche sono 50 mostri ti possono attaccare tutti e 50 e attaccano sempre i primi 3 tuoi personaggi dell'elenco, quindi insomma abbiamo una simulazione che arriva fino a un certo punto. E lui con Exodus fa un sistema tattico, per cui quando si incontrano i mostri, tipo alla Final Fantasy, no? Si passa dalla mappa a una piccola mappa di gioco in cui tu devi muovere i tuoi 4 personaggi a turno, e poi dopo il computer muove i mostri e poi dopo tu di nuovo muovi i tuoi personaggi, per cui a questo punto si tratta di combattere a livello tattico ogni scontro, e tenere la linea è importante, e impedire che i personaggi più deboli, i maghi, finiscano in corpo a corpo con i mostri diventa fondamentale. Poi purtroppo gli algoritmi di intelligenza artificiale sono quelli che sono, per cui i mostri vanno in linea retta verso il più vicino, il nemico più vicino, però comunque un minimo di tattica c'è, sicuramente c'è più tattica che in un gioco come Wizardry. È un passo importante, cioè in 6-7 mesi sforna un gioco che sembra molto simile a Ultima 2 e in realtà ha una profondità tattica che nessun altro gioco al momento ha, per cui ha veramente fatto un salto da gigante. Ma poi c'è un'altra cosa che cambia le carte in tavola completamente. Il tizio di cui abbiamo già parlato, questo Kenneth Arnold, che tanto ci sapeva fare con l'Assembly, e lui è rimasto in contatto con Garriott, e quando Garriott fonda la compagnia gli chiede se ti vuoi far parte anche tu del nucleo di fondatori assieme a mio fratello e a mio padre e al nostro amico Chuck Boucher. E Ken Arnold, che vi ricordavo i soldi non ce ne ha tanti, tant'è vero che era dovuto andare a lavorare tutta l'estate per comprarsi quel single board computer da 299 dollari, per cui insomma quando un Apple ne costava 1.300-1.500, Kenneth Arnold dice no guarda, non ho i soldi per prendere la mia quota di azioni di Origin, e ancora adesso si morde le mani, perché se l'avesse fatto avrebbe guadagnato milioni e milioni di dollari, però purtroppo non è andata così. Fatto sta che comunque quando lui fonda la compagnia lo richiama, ci senti, ti vuoi programmare un po' con noi, però Garriott non può assumere, per cui crea una sorta di sistema di freelance, gente che dà una mano, lavorano a contratto, fanno piccoli pezzi di programma, danno un supporto a fare il manuale, si occupano di piccole parti della produzione di questo gioco, e Kenneth Arnold porta la sua idea. Lui, ve lo ricordate, aveva fatto colpo sul titolare del negozio di Computerland dove si era incontrato con Garriott, aveva fatto colpo proprio perché si era messo a far suonare il computer. Allora dice a Garriott, sai, è uscita da poco una scheda audio, si chiama Mockingboard, la fa una casa di hardware che si chiama Sweet Microsystem, no? costa un occhio della testa, però è bella perché dentro c'ha due chip della General Instruments, due AY38910, che sono in grado di sintetizzare ciascuno sei voci, no? Potremmo utilizzarlo per creare una colonna sonora. L'Apple 2 di base c'ha soltanto il beeper, noi potremmo farlo suonare, e ti dirò di più, potremmo farlo suonare, fargli suonare una musica diversa in base alla situazione in cui il gioco si trova. Siamo in combattimento, gli facciamo suonare una musica agitata che dà l'idea di un combattimento, no? Stiamo passeggiando per la città, mettiamo una musica un po' più allegra, domestica, diciamo. Siamo al cospetto di Lord British, ci vuole una musica solenne, no? Ovviamente questa idea a Garriott piace tantissimo, e Garriott gli dice sì, però Arnold propone con ti creo le musiche partendo da tutta una serie di musiche tradizionali, faccio in maniera tale che la Mockingbird sia in grado di suonarle. Garriott accetta l'idea della colonna sonora, però dice già che ci siamo, facciamone una originale, visto che tu sai suonare e sai comporre, vai, procedi. Kenneth Arnold è entusiasta, si mette pure lui a scrivere e fa tutte queste canzoni a tema in base alla situazione. Ovviamente deve affrontare una serie di difficoltà tecniche enormi, perché l'Apple 2, l'hardware, non ha degli interrupt hardware, per cui far suonare una musica in contemporanea, esatto, al gioco, che sia sincronizzata, eccetera, non è proprio una passeggiata. La scheda audio ce li avrebbe questi interrupt che possono dire alla CPU fermati e adesso esegui questo. Fate conto che la Mockingbird era in grado di suonare, ma aveva comunque bisogno da parte della CPU di una serie di istruzioni, per cui doveva essere diretta dalla CPU, e già la CPU dell'Apple 2 non è che fosse sta grandissima potenza, siamo nell'83, per cui c'erano già CPU molto molto più avanzate e potenti dell'Apple 2, però la personalizzabilità, la possibilità di espandere l'Apple 2 gli aveva donato una vita più longeva del solito, no? Ma tu sai che affronta tutta questa serie di difficoltà che non sto qua a spiegare, che sono lunghissime, hanno a che fare con anche soltanto il fatto che Wozniak, essendo un genio creativo con un sacco di abilità tecniche e con la voglia di creare qualcosa risparmiando, si era inventato un sistema per cui sostanzialmente quando andavi ad utilizzare la risoluzione video utilizzavi delle pagine di memoria, per cui dovevi fare anche attenzione a dove mettevi il tuo programma, perché rischiavi che finisse esattamente nelle pagine in cui ci stavi che stavi usando per fare per disegnare a schermo. Ma poi la cosa diventava ancora più complicata se usavi la modalità doppia risoluzione, per cui avevi queste pagine che erano sparpagliate un po' ovunque nella tua memoria e dovevi sapere esattamente come stavi usando la memoria, perché il tuo programma lo dovevi un po' spalmare un po' qui un po' là, cercando di non sovrascriverlo alle parti in cui il computer poi avrebbe utilizzato la memoria per la scheda video. Se poi dopo ci metti dentro anche la scheda audio, immaginatevi che guazzabuglio. Fatto sta che alla fine lui, assieme ad altri due tizi, uno è Dave Arnstatten, lo conosceremo magari più avanti se ci accenderemo a Ultima Online, non lo so se ce la faremo. Fatto sta che si mettono lì a lavorare, riescono a far funzionare la Mockingbird, scrivono sette tracce, scrive Kenneth Arnold, sette tracce apposta, e poi si inventa un sistema carino, questo segnatevelo perché poi fra una mezz'oretta torna comodo per farsi una risata. Si inventa che praticamente la Mockingbird va a cercare un byte di memoria in un certo punto, proprio con un indirizzo particolare, e lì ci trova un numero. Se questo numero è pari a 0, la Mockingbird non deve suonare niente, silenzio. Se è pari a 1, deve far suonare il brano 1. Se è pari a 2, deve far suonare il brano 2. In pratica, il gioco, quando inizia un combattimento, va a cambiare questo byte e ci mette il numero del combattimento. Se il giocatore entra in città, il byte cambia e diventa il byte della città. Per cui la Mockingbird, controllando questo punto particolare, sa che musica suonare. Quindi abbiamo una delle prime colonne sonore originali scritte per un gioco per computer, e in più anche coerenti con il gameplay, quindi qualcosa di abbastanza innovativo. Infatti Ultima 3 passa un po' alla storia anche per questo motivo. E qua abbiamo un momento simpatico. Garriott inizia a pensare di tornare in Texas, perché, come dicevo, lui il New Hampshire proprio non piace, e siccome aveva promesso a suo fratello che ci sarebbe rimasto per un certo numero di anni, non è tanto carino il fatto che sta già pensando di rimangiarsi la parola, e quindi inizia a fare alcuni viaggi in Texas per vedere un po' come organizzarsi, però lo fa in segreto. E in uno di questi viaggi, oltre al fatto che è richiamato da questo posto perché è lì che ci trova, ci lavora Lubè, è la sede della Steve Jackson Games, questa compagnia di giochi da tavolo fondata da Steve Jackson, che poi è il fondatore, l'ideatore di GURPS, di Munchkin, insomma giochi dovrebbero accendere una lampadina nella mente di chi ascolta. Fatto sta che lui va periodicamente in Texas con la sua con il suo macchinone. Intanto ha fatto un sacco di soldi, si è comprato una bella Mitsubishi, bella potente, una macchina sportiva. Va in Texas, va a trovare Steve Jackson, va a vedere Lubè, perché ha un po' in mente di chiamarlo a raccolta per lavorare con lui. E in uno di questi incontri, in una di queste visite, chi incontra? Incontra Warren Spector, perché Warren Spector sta lavorando per la Steve Jackson Games. Lui è lì, praticamente sente un rombo di motore, guarda fuori la finestra e vede arrivare la super sportiva di Richard Garriott. Lui scende con sta giacca di pelle, va dentro a parlare con Steve Jackson, sono amici, e Warren Spector pensa: accidenti, devo cambiare industria, l'industria dei giochi da tavolo non funziona bene come quella dei videogiochi. Giochi, certo. Devo fare i soldi come lui, no? Questa è la prima volta che si vedono. In realtà questa è la prima volta che Spector vede Garriott, perché Garriott non sta guardando da quella parte, non lo vede. Si incontreranno più avanti. Warren Spector, per chi magari il nome gli ricorda qualcosa, ma non sa esattamente chi è, quello che poi diventerà il produttore di alcuni dei titoli di maggior successo della serie di Ultima. Ultima 7, Ultima Underworld, e poi alcuni capolavori, secondo me, System Shock, Deus Ex, quando poi ovviamente lascerà Origin, Deus Ex. Insomma, stiamo parlando di un altro peso massimo dell'industria dei videogiochi. Però ai tempi stava lavorando a giochi da tavolo con la Steve Jackson Game. Fatto sta che lui, Garriott, sta pensando di andare nel New Hampshire, e a questo punto succede una cosa abbastanza carina. Prima di tutto, ne abbiamo già parlato, lui incontra Roy Adams nel New Hampshire, e Roy Adams gli dice, gli fa sentire la possibilità di guardare più in alto. Con Exodus ha creato un gameplay più ricco, più interessante, più profondo. Roy Adams, che ripeto era il tizio che aveva già inventato queste piccole rivoluzioni copernicane, questo cattivo che deve uscire dalle segrete, Verna in Wizardry 3, se non erro, cioè la rivoluzione, di solito il giocatore guida gli eroi che devono sconfiggere il cattivo. A questo giro i giocatori guidano il cattivo che deve sconfiggere i buoni e deve liberarsi dalla prigione in cui è stato chiuso dopo essere stato sconfitto nel capitolo precedente. Roy Adams suggerisce a Garriott di ripensare il suo modo di fare giochi di ruolo per computer. Garriott, insomma, è un terreno fertile per un'idea di questo tipo. I due collaborano e si inventano questo sistema di virtù, che poi sarà la chiave del prossimo capitolo. Però nel frattempo, gettato il seme, nel frattempo Garriott inizia a trasferirsi in Texas e fa una vera e propria rivoluzione, nel senso che, come avevamo detto, il fratello non era contento. Garriott non è un tizio al quale è facile dire di no, questo ormai l'abbiamo capito. Fa un po' il giro di tutto lo staff di Origin, che nel frattempo, insomma, sono usciti diversi titoli di successo e si è allargato. Ha preso, per esempio, da Steve Jackson Games, ci andava anche perché doveva trattare i diritti per la conversione di due giochi da tavolo in giochi per computer. Sto parlando di Auto Duel, che è la versione videogioco di Car Wars, e sto parlando di Ogre, non so se un altro gioco abbastanza famoso, gioco da tavolo sempre da Steve Jackson Game. Insomma, Origin marcia abbastanza bene, se la cavano bene, quindi pian piano si ingrandiscono. Hanno anche assunto una serie di persone a contratto, per fare i porting dei giochi per le altre piattaforme, iniziano a battere tutto il mercato. Ecco, questo è il momento in cui Carlo, Origin inizia a ripescare tutti i computer che fino a quel momento sono stati un po' bistrattati, perché decidono di ogni titolo che esce di portarlo sul maggior numero possibile di piattaforme. E poi sei col 4, quindi sì, siamo adesso siamo tra l'84 e l'85 più o meno, e non lo fanno con l'ultima 4, è in sviluppo, non è ancora uscito, attenzione. Ok, quindi iniziano già con a questo punto sì, con l'ultima 3 sulla piattaforme, Auto 2 e Ogre sulle varie piattaforme, e poi siccome stanno per iniziare a riprendere i diritti di Ultima 2 e di Ultima, iniziano anche a lavorare su questi, perché appena potranno li vogliono lanciare sul mercato nella versione stampata e pubblicata da Origin. In questo, dicevo, a questo punto lo staff inizia ad essere abbastanza grande, è in parte formato dalla gente che era stata, diciamo, le prime leve del Texas, e in parte chiaramente con gente che era stata reclutata in loco nel New Hampshire. Tra questi, fra l'altro, c'è un tizio che dovrebbe, anche questo dovrebbe far accendere una lampadina, aspetta, devo guardare un attimo gli appunti, perché Dave, scusate, un attimo di defaillance, e dovrebbe iniziare Dave, avevi segnato dal mago di Oz le virtù di Ulti. Sì, no, ma sto cercando proprio il nome che non lo trovo. Ah, ok. Vabbè, fa niente. Dave, inizia con la... Fa niente, vabbè, comunque reclutano un po' di gente del posto, sì. E quindi Garriott, sapendo che se vuole trasferire la compagnia, Dave Albert, ce l'ho fatta, Dave Albert, che dopo vi spiegherò chi è, sapendo che deve trasferire la compagnia in Texas, sa anche che ovviamente quelli del New Hampshire potrebbero non essere d'accordo, contentissimi, certo, del trasferimento. Quindi come non lo era lui di trasferirsi. Esatto, inizia a lavorare un po' sotto banco, in modo tale che quando arriva a dire al fratello, dai, torniamo nel Texas, il fratello dice sì, però facciamo una votazione. Però la gente del New Hampshire ormai numericamente è superiore alla gente del posto. Certo. Fra l'altro, contemporaneamente succede una cosa molto, molto, molto interessante, però anche molto brutta. Chuck Boucher, l'amico di Garriott, quello che si era portato dietro sin dall'inizio, uno dei fondatori di Origin, Chuck Boucher rilascia un paio di avventure che non vanno bene. Fra l'altro, una di queste due avventure doveva lavorare John Romero, appena assunto, per fare porting per PC. L'hanno assunto proprio, dovrebbe essere 2400 AD l'avventura, che è anche molto simile, se la vedete, a Ultima, come stile grafico, con la grafica tassellata, eccetera, però è fantascientifica. Assumono un giovane John Romero, che ovviamente non ha ancora fatto nulla di tutte quelle cose che poi lo renderanno famoso. Famoso. Dovrebbe fare il porting per IBM, però il primo dei due capitoli di questo gioco va male, per cui a un certo punto staccano la spina al progetto, Chuck se la prende malissimo e molla la compagnia e va a studiare per finire l'università, l'aveva lasciata apposta per cofondare Origin assieme a Garriott. Ricordatevi che Garriott è uno che veramente trascina le persone, quindi l'ha portato via dall'università per alcuni anni, cioè che è stato dietro, a un certo punto ha detto no, basta, questo fallimento mi dice che io non voglio più rimanere in industria dei videogiochi, voglio fare altro. Finisce l'università, ma intanto comunque se ne va. Fra l'altro, questa cosa ha la conseguenza che John Romero, che era stato assunto proprio per fare il porting di questo gioco che è cancellato, molla la compagnia e va a cofondare una sua compagnia con la quale ha intenzione di fare cose grandi, però in realtà non combina nulla, perché la compagnia di lì a 6 mesi muore. Però non importa, perché è il primo passo che lo porterà poi a fondare insieme ad altre persone la ID Software. E fra parentesi, il fatto che aveva conosciuto i tizi della Origin vuol dire che poi quando faranno il primo Wolfenstein, il primo loro gioco veramente di successo, certo, la prima cosa che faranno sarà andare a Origin e dire, oh, noi abbiamo questo gioco qua, ce lo producete voi. Trovano un Dallas Snell che insomma non è tanto, è un po' lungimirante, e dice no, non sono convinto da questo gioco, e fa l'errore della vita, ovviamente. E vabbè, comunque Niente, un'altra, quindi, questa è un'altra storia, diciamo. Sì, sì, questa è un'altra storia, giusto per far capire come si intrecciano tutte queste storie, certo. Si intrecciano tutte in Origin. È una compagnia piccola ma estremamente dinamica. Fra l'altro, sempre nel New Hampshire, entra come freelance un tizio, si chiama Paul Neurath, che dovremmo conoscere perché è cofondatore della Looking Glass, la compagnia che ha fatto Thief, che ha fatto System Shock, che ha fatto Deus Ex, ha fatto un sacco di titoli particolarmente interessanti. E lui era un freelance e lavorava lì per Origin. Infatti, se andate a guardare diversi giochi di Origin a cavallo tra l'84 e l'85, da qualche parte nei credit vedete anche lui, che magari ha fatto testing, che magari ha fatto additional programming, eccetera. Però questo perché la compagnia era piccola, avevano pochi soldi, per cui non potevano assumere le persone, però un posto, una scrivania per qualche programmatore talentuoso c'era sempre. Quindi gente che invece che lavorare da casa prendeva il proprio computer, il proprio Apple II, tutti con l'Apple II, assolutamente, era una compagnia in cui solo sull'Apple II si programmava giochi, poi sì, si portavano su altre erano anche americani, quindi era logico, insomma. Sì. Il periodo era quello, diciamo, avevi l'Apple II. Rigorosamente si sviluppa su Apple II e poi eventualmente lo portiamo sulle altre piattaforme, ma certo. L'Apple 2 è la base di tutto, sì. Quindi un posto per il vostro Apple 2 lo troviamo, venite qua, mollate giù, vi mettete a programmare il vostro gioco, se poi dopo magari avete bisogno di una mano chiamate, e magari se noi abbiamo bisogno di una mano chiamiamo voi. È così che vedete che i nomi dei programmatori di Origin finiscono nei giochi di sviluppatori indipendenti, e sviluppatori indipendenti finiscono nei crediti dei giochi di Origin, perché sostanzialmente c'è un sacco di gente che girava in questi, i freelance, diciamo, sì, questi. Ma una sorta di incubatrice ante litteram Origin in questo caso. Sì, sì, Origin. Fatto sta che comunque si rompe l'incanto, perché Garriott fa una vera e propria rivoluzione. Dice: basta, io me ne vado in Texas. Dite quello che volete, io me ne vado. Chi mi ama mi segua. Ovviamente c'erano diverse persone che lo amavano e se ne vanno. Dave Albert, che stavo dicendo prima, che è stato assunto dalla Penguin Software per fare vicepresidente di Origin e per sviluppare la compagnia, Dave Albert, insomma, aveva faticato tanto per creare un gruppo di programmatori, aveva assunto gente veramente in gamba, tra cui un John Miles, di cui mi pare di aver fatto il nome la volta scorsa, al limite lo rifaccio, lo spiego tra 5 minuti chi è. Insomma, ha fatto un sacco di fatica per radunare questa compagnia, creare nuovi titoli, farla sviluppare. Quando vede che Garriott gliela smonta, gliela spezza a metà letteralmente, spostando il cuore dell'azienda, cioè il suo ultima, alla fine era quello che teneva in piedi i bilanci della compagnia. Gli altri giochi sì, producevano un po' di reddito, ma sostanzialmente ci volevano 5 giochi per fare un'ultima a livello di budget, no? Di vendite, certo. Esatto. E quando vede che si porta via un po' di programmatori, spezza a metà la compagnia e se ne va in Texas, e sostanzialmente nel New Hampshire ci lascia soltanto la parte produttiva e i programmatori che dovrebbero fare i porting, tra cui appunto un John Romero che sta per andarsene, e un Dr. Cat che abbiamo nominato la volta scorsa, quello del porting per Commodore 64 e Commodore 128. Mm-hmm. Cioè, insomma, quelli che però fa da ultima 5 lui, giusto? Non prima. Sì, la farà. No, lui però è stato appena assunto sempre da Dave Albert per fare il porting di altri giochi. Okay. E dicevo, quando Dave Albert vede la mala parata, lascia la compagnia e va da un nostro vecchio amico, va all'Electronic Arts di Joey Barra, dove proprio lì condurrà, visto che ormai si è fatto la pratica dei giochi a produrre giochi di ruolo, produrrà tutta una serie di giochi di ruolo, tra cui, accidenti, Wasteland, Fountain of Dreams e Bard's Tale 3. E fra parentesi, l'ultimo gioco che produrrà sempre in Electronic Arts prima di andarsene in malo modo è un certo Centurion, non so se ve lo ricordate, dal tizio di The Defender of the Crown, programmatore di The Defender of the Crown. E la situazione tra Dave Albert e Electronic Arts è così declinata che, se andate a guardare in Centurion, c'è un generale che si chiama Albertus Discreditus. È preso in giro perché lui stava litigando dalla mattina alla sera col management di Electronic Arts, aveva già deciso di andarsene, stava soltanto cercando di finire i giochi che aveva in ballo prima di mollare. Allora i suoi colleghi, che lo apprezzano, mettono dentro questo easter egg, questo generale romano, che è reclutabile, ci potete guidare le legioni con Albertus Discretus. Fatto sta che comunque insomma hanno perso questa rottura della compagnia, crea diversi problemi e fa perdere alcune figure chiave ad Origin. È una grossa scommessa, la compagnia potrebbe cadere a pezzi, ripeto, è basata, i bilanci stanno in piedi grazie a Ultima. Un ritardo di Ultima vuol dire che la compagnia finisce a gamba all'aria, ma non solo, perché la rottura fa perdere pezzi importanti, si va appunto anche John Romero, per cui rischiano di avere magari un'ultima, non avere un'ultima sulle altre piattaforme che non siano l'Apple 2, e l'Apple 2 a livello di numerico continua a vendere, siamo nell'85 più o meno, continua a vendere abbastanza bene, però è surclassato da altre piattaforme. Il Commodore 64 ormai gli ha fatto il giro attorno 8 volte. Volte, certo. Infatti è il periodo di boom dell'Electronic Arts, quel periodo lì proprio dove esplode, proprio perché produceva giochi specialmente, esatto, per il Commodore 64. Quindi perdere i porting per Commodore 64 è un suicidio per chiunque. Certo, certo. Nell'85 soprattutto. Assolutamente. E poi c'è da dire anche il fatto che la scelta dell'Apple 2 comunque alla fine era anche abbastanza strategica, perché alla fine il cuore dell'Apple 2 è il 6502, che poi in una versione modificata è anche il cuore del Commodore 64. Sì, versione evoluta, diciamo. Il 64 è uscito anni dopo rispetto all'Apple 2, quindi era anche logico che fosse un qualche cosina di più. Perché sì, l'Apple 2, però, ricordiamolo, è una tecnologia sviluppata nel 77 alla fine, e quindi dal 77 all'82, diciamo che ne acqua ne era passata sotto i ponti. Ecco. Dal punto di vista tecnologico, certo, però dal punto di vista della programmazione comunque sono delle macchine molto simili. Il 7502 era sempre prodotto, esatto, oltretutto dalla Commodore stessa, quindi è quello per cui è facile portare un gioco dall'Apple 2 al Commodore 64, è molto più difficile, molto, questo è il discorso che faceva Simone prima, molto più difficile portare un gioco dall'Apple 2 all'IBM PC, perché l'assembly è completamente diverso, le macchine sono completamente diverse e hanno delle caratteristiche assolutamente difformi, per cui certi giochi sull'Apple 2 ce li puoi far stare, sull'IBM PC pure, però non sono così belli, perché ai tempi che grafica avevano ancora, no, nell'85 c'era già la CGA, però nell'83 nell'85 c'era già anche la EGA, c'era anche i 16 colori, sì, però sì. Era poco usata, diciamo, ecco, diciamo così. Ecco. No, le versioni EGA dei giochi erano pochissime, pochissime. Anche se in realtà chi sapeva programmare bene l'IBM PC, e qui purtroppo la Sierra in quel periodo lì era decisamente più avanti, riusciva a tirar fuori 16 colori anche dalla stessa CGA. Infatti i giochi della Sierra, i vari King Quest eccetera, sono famosi proprio per avere una grafica decisamente migliore degli altri giochi del periodo sull'IBM PC, proprio che riuscivano a sfruttare all'osso le caratteristiche del PCBM, diciamo. Comunque ritorna al porting di Dr. Cat a questo punto. Prima c'era un nome che ho fatto, prima ho accennato a John Miles, questo per far capire come sostanzialmente il primissimo motore dell'industria dei videogiochi era proprio l'emulazione, il gusto dei programmatori di smontare il lavoro degli altri e rimontarlo secondo i propri gusti, no? John Miles frequentava l'università e quando uscì Ultima 3, Exodus, mollò l'università sostanzialmente, rimase per diverse settimane nel suo dormitorio senza uscire di casa, senza andare a lezione, perché doveva giocare il gioco. Quando ha finito il gioco rimase ancora nel dormitorio perché iniziò a fare il suo gioco di ruolo, no? Mm-hmm. E, ispirandosi a quello che aveva appena giocato, però fece un misto, no? Per cui c'era anche un parser, un po' come i giochi di avventure testuali, per cui era un misto gioco di ruolo e gioco d'avventura in cui bisognava dare comandi al computer, vai a est, prendi questo, prendi quell'altro, insomma un gioco derivativo, una sorta di mischiotto di generi, no? Sviluppa questo gioco e quando è convinto che insomma è abbastanza completo da farlo vedere a qualcuno, visto che era infatuato di Origin, prova a chiamare la compagnia e gli risponde al telefono questo Dave Albert di cui parlavo prima, la compagnia è piccola, alla fine vicepresidente poi sostanzialmente fa molto più del vice, fa anche ufficio personale, reclutamento, ne fa di tutte. Gli risponde lui al telefono, si fa mandare il gioco, lo visiona, lo trova ben fatto ma troppo derivativo di altri, e per questioni di copyright dice non ci interessa, però tu sei bravo, che ne dici di venire a lavorare da noi? E lo assume John Miles. Questo già l'anticipo, noi adesso tutti dovremmo ricordarcelo per il Miles Sound Driver, quel middleware che a cavallo tra l'87 e il 91 più o meno letteralmente spopolò, e lo vedevamo in tutti i giochi per IBM e PC, per giochi per PC, per PC DOS, quando avviavamo questi giochi vedevamo il logo con la batteria e con scritto Miles Sound Driver, sì. era un tool che serviva ai programmatori per far funzionare la scheda audio, la scheda video eccetera, senza dover stare lì a fare programmazione di basso livello. Quindi lui una libreria per utilizzare le schede audio, insomma, in quel caso schede audio, schede video, sì. Il suo nome, se andate su Moby Games lo trovate in migliaia di giochi. Pensate che se abbia programmato migliaia di giochi, no, lui ha fatto un driver, esatto. Un po' come Blink Video, tutti quei chiaro. Tool che vedete, che accidenti, ma stanno dappertutto, ecco perché funzionano. Questo però è successo dopo, ai tempi è soltanto un ragazzo che molla all'università, se va sulla sua Camaro, accidenti che bella macchina che aveva, e va fino nel New Hampshire. Fra l'altro, ironia della sorte, lui è del Texas, quindi molla Texas per andare pure lui nel New Hampshire. E raggiunge la compagnia, e lungo la strada, visto che gli dicono che la compagnia sta lavorando, e questo ci ricollegavamo al discorso di prima di Simone, sta lavorando al porting per IBM PC di Ultima, no? Sì. Che nel frattempo finalmente è tornato nelle mani di Origin ha fame di prodotti da sfornare, perché Garriott è uno solo e può sfornare un gioco ogni due anni quando va bene, però la compagnia ha bisogno di un flusso costante di titoli. Ma nel primo Ultima sta lavorando? Il primissimo Ultima. Quindi non l'ha fatto la Sierra a questo punto? No, non l'ha fatto la Sierra, aveva i diritti ma non l'ha fatto perché c'era stato un litigio e l'ha mollato lì. Arriva il momento che i diritti tornano in seno a Origin, per cui finalmente facciamolo, no? Quando Miles tira sul telefono, lo chiamano per assumerlo, lui sale in macchina, si porta dietro su Apple 2 e lungo la strada la sera si ferma e si mette a programmare tutta la notte. Gli dicono che vogliono portare Ultima 1 sull'IBM PC. Mm-hmm. Allora lui si mette a lavorare, a pensare, a scrivere eccetera. Quando arriva ho fatto confusione, gli dicono che vogliono portare sull'IBM PC e è al lavoro un team guidato da Facchini, da Gio Facchini, però lui viene incaricato di fare una sorta di versione rimasterizzata di Ultima per l'Apple 2, per quello che si carica l'Apple 2 nel bagagliaio della macchina, sì. E lungo la strada si mette a programmare, siccome vuole fare colpo, insomma è la prima volta che lo assumono, vuole far vedere che è in gatta, si mette a rifare l'introduzione del gioco e si inventa questa, una versione che poi è la più famosa, questa scena del lago col castello, la mano che esce con la spada, esce dal lago, e il cavaliere che entra nel castello, e si inventa una serie di easter egg per cui se tu lasci girare il gioco ogni 8 o 10 volte, non mi ricordo esattamente quante volte succede, il cavaliere viene sostituito da una Ferrari che sfreccia dentro nel castello. L'ho fatto per fare colpo, quando arriva fa vedere e effettivamente fa colpo, e quindi lo lasciano dentro nel gioco. Però siccome vuol far colpo lascia anche una seconda cosa, si mette un po' a pasticciare col codice che aveva scritto Ken Arnold, quando arriva mette mano sul codice di Exodus, vi ricordate quel beat della colonna sonora, certo, e lui praticamente va un po' a manipolare il codice che è scritto per far funzionare la Mockingbird, e in pratica quando il gioco viene lasciato per un tempo prolungato inattivo, questo bit viene modificato, per cui lo schermo diventa sotto sopra. Non so se avete mai visto al contrario, sì. Al contrario, sotto sopra. lui fa questa piccola modifica, poi vanno tutti a mangiare, quando torna lo lascia sempre il computer accesi, eh? Quando torna vedono tutti gli schermi al contrario, cioè, cosa è successo qua? E inizia una discussione tra Chuck Boucher, che non se n'era ancora andato, tra Garriott, con Miles che se la ride sotto i baffi, e presenta anche Dr. Cat che vede la scena, e alla fine capiscono che insomma è stato lui a fare qualcosa, perché è l'unico che non si sta mettendo le mani nei capelli, e scoprono. Questo per capire come l'ambiente era abbastanza giovanile e goliardico, no? Certo. Sembrava una software house come per esempio l'Electronic Arts, dove nonostante si spacciassero come artisti digitali, sostanzialmente erano degli impiegati messi a lavorare 15 ore al giorno per fare giochi, insomma, sfornarli a ritmo continuo. Tanto sta che quando c'è la rottura, Miles, che vuole fare ancora bella figura, gli chiede: ma tu che fai, resti qua nel New Hampshire o vieni con noi in Texas? E lui: no, resterò qua nel New Hampshire perché insomma voglio fare il bravo soldatino. Proprio quella sera stessa nevica, lui esce con la sua Camaro, va fuori di strada, la spacca via, e lui ha capito che ha fatto l'errore della vita, deve tornare in Texas col clima che c'è là, che insomma cambia idea e se ne va in Texas. E questo è il motivo per cui sostanzialmente Ultima 5 è il primo gioco scritto a quattro mani, perché tutti gli altri li ha fatti tutti Garriott dall'inizio alla fine, con qualche aiuto qua e là. Scusate, stai parlando di Ultima 4, non Ultima 5, sì. Troppo avanti. Ultima 4 è il primo gioco che ha due credit. Sì, Simone è preoccupato, siamo Ultima 4 e mancano 5 minuti alle 23. Sì, no, possiamo arrivare al massimo fino alle 23:10, ma io proprio, cioè, io sono combattuto tra l'interesse a sentire il racconto e ovviamente le esigenze. No, ma è più una questione di programmazione, perché poi parte proprio la programmazione automatica della notte, quindi dopo è vero, diventa un po' complicato. Ero avvisati, staccatemi il microfono senza pietà quando è il momento. Io direi che è difficile Andrea, sì, a parte che secondo me bisogna focalizzare, no? Cioè, nel senso, in qualche maniera, questo lo dico sempre pure quando organizziamo le nostre puntate, no? Perché raccontare una storia, no? è talmente vasta e complicata che diventa veramente immenso. Allora bisognerebbe andare per step, per capitoli, no? Secondo me. E sì. Comunque, vabbè, dai, intanto 10 minuti ce l'abbiamo. Siamo avanti, arriva non, nel giugno. Non so che cosa ci riesce a fare con 10 minuti, però. ci proviamo. Arriva nel Texas, sì. E ha i rinnegati, quelli che si sono ribellati, che però sono pochi. Mm-hmm. E deve reclutare forze nuove. Prima cosa che fa, va alla Steve Jackson Games e recluta di nuovo Lube. Questa volta in pianta stabile, se lo porta dentro in Origin, dice: io ho bisogno di te, che mi fai le copertine, che mi fai i manuali, e già che ci sei inizia a farmi anche tu, perché sono stanco di farle io, mi vai a fare i tile dei miei giochi, perché infatti vedete che tra il 4 e il 5 cambia tutto, nel senso che non è più un programmatore che si mette a fare la grafica del gioco, ma si vede che c'è dietro un artista, certo sempre la grafica dell'Apple 2A, per cui fino a un certo punto, però si vede che c'è la mano di qualcuno che sa disegnare, e non è un programmatore che si diletta nel tempo perso a fare anche un paio di disegnetti. Insomma, qua vediamo anche l'industria del videogioco che pian piano cambia, per cui la figura del programmatore tuttofare che scrive, fa, disegna, suona anche la musica, già che c'è, e scrive il manuale, fa la copertina, stampa, fotocopia e copia anche floppy, già che c'è, questa cosa ormai è praticamente finita. Ci sono ancora uscirà ancora qualche gioco fatto da un solo programmatore, però ormai non è più la norma. Beh, è cambiata proprio l'industria a un certo punto. Sta cambiando, c'è bisogno di persone specializzate. Lube viene assunto per fare il disegnatore, per fare l'artista, perché c'è bisogno di qualcuno che sappia disegnare, non solo per i manuali, ma anche per la grafica del gioco. Certo. E stiamo sempre usando la stessa macchina di 6 anni prima, non è cambiato nulla. Semplicemente l'industria è cambiata, ci sono delle richieste più grandi. E tra le varie cose, questa la devo raccontare perché è troppo bella, se non se la lascio fuori, come facciamo? Lube stava collaborando con un ragazzo che da poco era arrivato dall'Inghilterra, si era fatto le ossa sul BBC Micro E quando è arrivato negli Stati Uniti si era reso conto che il BBC Micro nessuno lo conosceva. Non lo conosceva nessuno. Era a programmare con il BBC Micro. Dall'Inghilterra e dice che cazzo del computer. Programmare giochi negli Stati Uniti per BBC Micro era un ottimo sistema per morire di fame. Per cui si deve un po' adeguare, dice qua o Commodore 64 o Apple 2. Però lui non è che ha tutta sta dimestichezza, per cui piano piano, nonostante sia una persona molto brava a programmare, deve farci la mano. Entra in un negozio di giochi da tavolo e vede un disegno, è un disegno di Roubaix ovviamente, è impressionato, chiede spiegazioni, il tizio del negozio gli spiega che quello è un artista locale che fa disegni fantasy. E allora i due si contattano e questo ragazzo dice a Lubè, insomma, si presenta, sono un programmatore, vorrei fare un gioco, mi daresti una mano, mi serve proprio un disegnatore, no? Questo ragazzo si chiama Chris Roberts. Lubè gli dice di sì, accidenti, Lubè gli dice sì dai, lavoriamo insieme. Peccato che di lì a una settimana o due arriva Garriott e dice vieni a lavorare con me, e dice di sì anche a Garriott, per cui molla Chris Roberts non se la prende proprio bene, va da Lubè proprio quando Lubè era a lavoro in Origin, nei nuovi uffici di Origin, e insomma gli rinfaccia che però avevi dato la parola a me, adesso mi hai mollato e io sto gioco che me ne faccio. Allora Lubè si sente un po' in colpa e spiega a Garriott, insomma stavo lavorando con lui, ha in mente un gioco abbastanza bello, promettente, si chiamerà Times of Lore, e Garriott, che ripeto è un tizio pieno di energia, dice dai vieni anche tu a lavorare con noi, prendo un programmatore, uno più uno meno, un disegnatore e basta, no? E lì inizia il sodalizio con Chris Roberts. Sappiamo tutti che dopo un paio di passi falsi Chris Roberts sostanzialmente ruba la scena a Garriott, perché fa un gioco che vende 10 volte Ultima e Wing Commander, ovviamente con tutta la sua serie. E comunque è grande Wing Commander, grande gioco, grande saga. A questo punto, ripeto, è arrivato nel Texas anche Miles, i due si mettono a programmare e fanno l'ultimo, loro non lo sanno, fanno l'ultimo gioco che verrà mai prodotto per l'Apple 2 da Origin, è Ultima 5, il Guerriero del Destino. E anche qua Guerriero del Destino, ma come mai c'è la parola del destino, spada del destino eccetera, è un qualcosa che ricorre spesso anche in Bard's Tale, in Wizardry, come mai? Perché come al solito c'è dietro lo zampino di Roy Adams, che ha lavorato per tutti e tre, insomma era una fissa sua quella di aggiungere Of Destiny nei vari oggetti magici, situazioni nei vari giochi, per cui dove andava lasciava l'impronta. Fatto sta destino che, sì. Ultima 5 esce, è un successo ancora più grande, è un gioco veramente completo sotto tutti i punti di vista. È Ultima 5 credo sia stato il primo Ultima di cui io ho avuto notizia, tra virgolette, cioè mi sono accorto di Ultima col 5, per dirti, all'epoca, ti parlo all'epoca. Stato su Commodore 64, certo. 128, il porting è particolarmente ben riuscito, se ne occupò di RK, l'abbiamo nominato diverse volte, adesso finalmente parliamo di lui, era un programmatore dell'Indiana, era già andato nell'83 negli uffici della Origin quando aveva aperto, si era proposto, però Origin non era in grado di assumerlo, per cui poi si era andato, era tornato sui suoi passi, aveva lavorato nella Penguin pure lui, insomma è un po' destino delle compagnie dei videogiochi di successo quello di prendere di mira un'altra compagnia e svuotarle il personale, non so, mi viene in mente l'Atari che ce l'aveva con la Ampex, a Origin che ce l'aveva con la Penguin, Dalla Snell, altro nome che ho nominato, veniva pure lui dalla Penguin, cioè sostanzialmente il più alto management e i programmatori migliori della Origin, della prima leva, venivano tutti dalla Penguin Software. Fatto sta che comunque incaricano lui di fare il porting, di Aircut, insomma ci tiene parecchio a fare questo porting e si impegna a tal punto che inserisce una serie di controlli per cui quando il gioco viene avviato su Commodore 64 il programma rileva che si tratta appunto di un Commodore 64, per cui viene incontro alle minori capacità hardware, non suona la musica, una grafica ridotta, un gameplay leggermente sminuito, diciamo. Se invece il programma rideva, che insomma è eseguito su Commodore 128, allora fa utilizzo di tutto ciò che il Commodore 128 ha in più, la memoria in più video viene utilizzata per la musica, un sacco di cose, per la, insomma, è un porting veramente bello, sotto certi punti di vista è persino migliore del, dell'originale, cosa che di solito non era, perché ricordiamoci che i programmatori migliori facevano il gioco base e i programmatori, diciamo, di seconda categoria erano di solito impegnati a fare i porting per forza. A questo giro invece abbiamo un programmatore di prima categoria che lavora sul porting e lo fa così bene che è più bello dell'originale, anche perché Commodore 128 dal punto di vista hardware è più potente dell'Apple II, con tutte le modifiche la Mockingbird non sta al pari del, del SID del 128. Qua bene, io alla vai. No, perché sì, qui dobbiamo trova un modo per chiudere il paragrafo. Ce la faccio. Ultima 5 è l'ultimo gioco prodotto, prodotto per l'Apple 2. Garriott, come finisce, si mette già a lavorare al capitolo successivo per Apple 2, però di lì a 6 mesi si rende conto che l'Apple 2 ha smesso di vendere, l'IBM PC è partito ed è collato, sono uscite le schede audio, sono uscite le schede video più potenti, insomma è un passo falso enorme, perché sta per produrre un gioco che uscirà per una piattaforma che sta morendo letteralmente. Vero che la venderanno fino al 93-94, ma ormai è al capolinea, per cui improvvisamente decidono di passare all'IBM PC, ma c'è un piccolissimo problema: nessuno possa programmare per IBM PC. Avevano fino a quel momento raccolto solo programmatori Apple II e quindi c'è un vero e proprio cambio della guardia, devono prendere tutta una serie di programmatori per IBM PC, quelli che avevano fatto i porting fino a quel momento, li promuovono a programmatori principali. Garriott, che non sa assolutamente programmare per l'assembly, si mette lì a studiare l'assembly mentre dà indicazioni di tipo creativo, e per cui per la prima volta non programma più perché sta studiando, ma dirige dal punto di vista creativo, ma si rende conto che è più divertente dirigere, fare il creativo, certo, che smazzarsi la pagine, coperta pagine dell'acqua calda, insomma, è arrivato e da quel momento tu fai quell'altro, no, più giù, no, più verde, esatto, e da quel momento in poi non programmerà più, ogni tanto si siederà al computer, farà due cosette, qualche routine, un po' di debug, ma poi sostanzialmente dirigerà e sarà il creativo in causa. Non, il ruolo di programmatore è dismesso praticamente per sempre. E a questo punto, con un team completamente nuovo, di gente che sembrano dei pivelli perché non hanno fatto niente fino a quel momento, in realtà erano nelle retrovie a lavorare sodo per far funzionare la compagnia, con questa nuova leva si arriva a produrre Ultima 6, che è il primo titolo di Ultima sviluppato esclusivamente per PC, tant'è vero che non c'è sulle altre piattaforme, l'hanno portato su Commodore 64, ma lasciamo stare come è andato, ed è un successo clamoroso e alza l'asticella, perché richiede un hardware assolutamente avanzato, per cui non è un gioco per tutti. E con il passaggio da Apple 2 a PC sostanzialmente si chiude un'epoca. E direi che si può anche chiudere la serata, no? Beh, chiudere un'epoca, chiudere una puntata sulla chiusura di un'epoca è anche quasi poetico, tutto sommato, se ci pensi, insomma. Sì. Allora ragazzi, sei stato grande, una domanda, vai, prego. Poi chiudiamo, ma hai detto Ultima 6, tu adesso fai la domanda alla fine. No, va bene, sono una roba veloce che non ho capito una cosa, perché vado ai miei ricordi. Vai, scusa, stavo scherzando. Da non giocatore, ma scusa, non era uscito anche su Amiga Ultima 6? Mi ricordo male. Sai che ce l'ho anch'io sto ricordo strano? Sì. Cioè, me lo ricordo, mi sembra di ricordarlo. Sì, hai ragione, è uscito anche per Amiga, però ho sbagliato a parlare, è il primo titolo sviluppato su PC. Sul computer, personal computer. Sì, sì, non sono stato sui 16 bit e non sugli 8 bit. Okay, diciamo, esatto. Ma non è perché me lo ricordavo anch'io, in effetti. Poi dopo l'hanno portato anche su quel Commodore 64, ma chiaramente è una versione super castrata perché non ci stava. Sì. guardando però i video, mi ricordo perché in Europa almeno in quegli anni in Europa si usava molto l'Amiga, quindi mi ricordo che chi ci giocava su Amiga Ultima 6 in quel periodo lì, poi dopo da lì a 2-3 anni dopo basta, l'Amiga non c'era più e tutti giocavano su PC, questo è ovvio, era anche il periodo di transizione, insomma. Vabbè, però mi sembra ricordare che lo fecero, insomma. No, no, ma infatti me lo ricordavo anch'io in effetti, però non mi vuole sbilanciare perché poi sai, da dire una scemenza ci vuole poco. Allora ragazzi, prima di salutare i nostri ospiti e prima di ringraziarvi per aver ascoltato, vi ricordo che domani sera c'è una puntata di Ludico Forum, quindi si scambia con Quando Eravamo Futuro, che invece si sposta al venerdì solo per questa occasione, dedicata alle migliori colonne sonore del mondo dei videogiochi secondo chi partecipa, mentre venerdì sera a Quando Eravamo Futuro è uno scontro tra maestri, Yoda, Miyagi e via dicendo, insomma, poi vedremo un attimo di capire bene che tipo di puntata. In realtà non il maestro Canello di Fantozzi, in realtà non si è capito bene che tipo di puntata, ma siamo tutti pronti, mentre sabato sera Michela De Paolo e Carlo Sant'Agostino ci seguiranno. Aiuto. La finale dell'Eurovision Song Contest. Esatto. E domenica. Simone, la tortura è iniziata in casa tua o non ancora? No, ancora non è iniziata. Però probabilmente lei già si sta allenando di là, io non lo so. Mentre domenica sera invece Michela fa una sua puntata di Mono, tutta dedicata a Franco Battiato, che giustamente ci ha lasciato proprio ieri. Facciamo questa puntata speciale, mentre che alle 23:30 di sabato sera c'è Runtime by Night come sempre, e poi ricomincerà tutta quanta la programmazione. Invece per quanto riguarda le archeologie, noi torniamo la prossima settimana di martedì con una puntata di archeologia informatica e torniamo a parlare di computer oltre la cortina di ferro, quindi sempre quel Russia. Tema insomma che abbiamo, di cui abbiamo discusso insomma nella puntata precedente, quindi vedete che stiamo facendo una sorta di sequel dei sequel con le varie trasmissioni, mentre che tornare a parlare di Ultima, sicuramente ci riorganizziamo insieme ad Andrea, poi ne parleremo, ci organizzeremo anche se non subito perché non sappiamo bene quando ci dobbiamo organizzare, ma la prossima puntata di archeologia videoludica sarà, dico solo il titolo, poi dopo andatevela a cercare di che si tratta, parleremo di Habitat, giusto Carlo Sant'Agostino? Gesù. Io ci ho scritto un saggio su Habitat. Bello, allora quindi ci devi essere. Parteciperai anche tu, perfetto. Siamo ancora in tempo per il libro, che ci siamo dimenticati di citarlo. Come no, hai ragione. Vai, citiamo. Tardivo. Anzi, Andrea, mostrali così li vediamo. Eccoli qua. Io non ce li ho sotto. Questo è l'edizione rilegata, questa è l'edizione copertina morbida. La copertina morbida italiana è già disponibile, rilegata in inglese il secondo volume è in corso di stampa, quindi di qui una decina di giorni sarà disponibile. Come la volta scorsa, il codice sconto è ancora attivo, Runtime Radio, sul mio sito ufficiale www.andreacontato.com, per cui c'è un piccolo sconto se vi interessa l'argomento. Quello che c'è scritto nei libri è 50 volte quello che si può stare in una puntata, però allora come la volta scorsa, come la puntata scorsa, troverete tutti i link e i riferimenti ovviamente nelle note dell'episodio, nella versione podcast che esce domani, e quando potrete ascoltarvela quando vi pare con calma, e andando sulle note trovate il link con anche il codice sconto che ha detto adesso Andrea. Ringrazio e saluto quindi Andrea Contato che ci ha raccontato per queste due puntate, e non è l'ultima chiaramente, pare caso, sempre un gioco di parole, che ci ha raccontato appunto questa saga di Ultima fino al 5 poi fondamentalmente, e poi torneremo a parlare di tutto questo. Grazie Andrea veramente del tempo che ci hai messo a nostra disposizione, e per queste serate anche veramente piene di racconti, tra l'altro veramente le persone che mi hanno anche contattato hanno detto è stata ed è, sarà anche in questo caso sicuramente una bellissima puntata quella precedente, quindi sicuramente anche questa, insomma, quindi grazie Andrea. Grazie a voi e ringrazio e saluto ovviamente il nostro compare Carlo Sant'Agostino, anche, non, anche grazie, detto grazie. Direttore editoriale responsabile Grand Cup Super President. Insomma, in prigione ci vado io, senti qualcosa. Oh, la mille, guarda, il prigione su Runtime ci vado solo io, quindi andate tranquilli, insomma. Nel caso Carmine Puccio Console, ciao a tutti ragazzi, con te ci vediamo domani sera, ragazzi grazie a tutti e ci vediamo la prossima occasione. Bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia.